Letture di Radio 24. Maglie in oro massiccio tempestate di 700 diamanti, 276 rubini e 92 smeraldi. O se preferite, un copricapo in oro e argento con 3.890 gemme tra cui spiccano più di 3.300 diamanti. Non è il mitico forziere di Barbanera o l'inventario del caveau di Fort Knox, ma più semplicemente l'elenco dei regali ricevuti in 7 secoli da San Gennaro. L'isola del tesoro esiste davvero e si trova a Napoli, non in mare, ma in pieno centro, distesa lungo un miglio d'oro che va dal Banco di Napoli in via Toledo fino alla cattedrale della città. È qui che si conserva il leggendario tesoro di San Gennaro, il più importante, antico e inviolato tesoro esistente al mondo, assai più prezioso di quella della Corona d'Inghilterra, degli zar, degli elettori di Sassonia, del Delfino di Francia e di tutti gli Asburgo messi insieme. È stata una recentissima perizia gemmologica, durata 3 anni e pubblicata nel 2010 dalla Libreria dello Stato, a stabilire quest'assoluta priorità. I pezzi che lo compongono raggiungono la mirabolante cifra di 21.620 unità, tra oreficerie, argenterie, tessuti, legni e quadri inestimabili. E se la regina Elisabetta II può ostentare il diamante più grande del mondo, il patrono di Napoli può vantare la collana più preziosa del mondo, composta da 13 maglie in oro massiccio, tempestate di 700 diamanti, 276 rubini e 92 smeraldi, alla quale, come se non bastasse, i re e le regine di Napoli e poi i re e le regine d'Italia appesero croci, crocette, verghette, pendenti e persino anelli tempestati di diamanti, zaffiri e smeraldi. Ma non è tutto. San Gennaro può mettere tranquillamente in minoranza la regina d'Inghilterra anche solo mostrandole il suo copricapo, una mitria vescovile in oro e argento con 3.890 gemme incastonate, tra cui spiccano 3.328 diamanti, 198 smeraldi, 168 rubini, giusto per gradire. I gemmologi non hanno dubbi, siamo di fronte a uno degli oggetti più preziosi al mondo. Ma c'è un ulteriore primato. Il tesoro di Napoli vanta 7 secoli di storia ininterrotta, senza aver mai conosciuto spoliazioni, dispersioni o vendite. Dove si trova oggi tutto questo ben di Dio? Si trova per l'appunto lungo il Miglio d'Oro. Una parte si conserva nella Cappella di San Gennaro e nell'attiguo museo, ma i pezzi più importanti e preziosi si trovano nel caveau del Banco di Napoli in via Toledo, certamente al sicuro, ma tristemente invisibili. Ecco dunque la grande notizia. Dall'8 aprile al 12 giugno, 150 pezzi del tesoro verranno messi in mostra in diverse sedi della città. Si sa già che per lo spostamento e l'allestimento delle opere verranno attivate eccezionali misure precauzionali, con mezzi blindati, guardie armate, sistemi d'allarme e molti elicotteri chiamati a vegliare sulle gioie del patrono. Una pia leggenda vuole che nel 305 d.C., durante la persecuzione romana dell'imperatore Diocleziano, il cristiano Gennaro venisse condannato a morte per decapitazione. La sentenza venne eseguita a Pozzuoli nell'alveo di un cratere attivo, la Solfatara. Quando si decise di traslarne il corpo da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte, presso Napoli, avvenne il fatto prodigioso. Il sangue del martire contenuto in 2 ampolle divenne liquido. San Gennaro era dunque vivo e, o miracolo del sangue, si sarebbe ripetuto per secoli. Il tesoro di San Gennaro nacque dall'immensa gratitudine dei napoletani per questa rassicurante presenza del santo. Il popolo e i potenti della terra fecero a gara per ingraziarselo con doni inestimabili. San Gennaro accettava i regali a condizione che brillassero per altissime qualità artistiche. Ecco spiegato il perché nel tesoro di San Gennaro non ci sono ciofeche. Vedere per credere. Il gioiello più antico della collezione è il busto del santo tempestato di smalti e pietre preziose, realizzato nel 1305 e donato da Carlo d'Angiò per contenere le ossa del cranio. Però la data di nascita ufficiale del tesoro è il 1527. Flagellata dalla peste e dagli eserciti francesi e spagnoli, Napoli chiese aiuto al suo santo e in cambio promise di erigergli una cappella votiva. Per far capire che le intenzioni erano serie, l'accordo tra San Gennaro e i napoletani venne stipulato davanti al notaio. Detto, fatto. Il santo agì e i napoletani pure. venne creata la deputazione della Real Cappella di San Gennaro per organizzare la costruzione della fastosa cappella accanto al Duomo e per gestire il flusso dei doni indirizzati al santo. La gloriosa deputazione ha funzionato e garantito in tutti questi secoli la custodia ininterrotta delle reliquie e delle donazioni. Guerre, rivolte, occupazioni militari, vendite, cambi di regimi e di dinastie non hanno mai messo in pericolo l'unità del tesoro, che è continuato a crescere e a prosperare. Lo stesso Napoleone Bonaparte, che ovunque in Italia aveva sottratto beni artistici, a Napoli non solo non prelevò nulla, ma tramite il cognato Murat regalò a San Gennaro un ostensorio di superba bellezza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Carminati «San Gennaro mette in mostra i suoi gioielli», pubblicato nell'inserto domenica in edicola con il Sole 24 Ore di oggi. Secondo uno studio della Royal Society inglese, la Cina nel 2013 sorpasserà gli Stati Uniti nell'ambito della ricerca scientifica. Solo 15 anni fa, Pechino produceva un decimo degli studi pubblicati in America. Piero Bianucci, sulla Stampa, spiega le ragioni di questo balzo in avanti previsto tra poco meno di due anni. Già nel 2013 la produzione scientifica cinese potrebbe superare quella degli Stati Uniti e diventare la prima del mondo. È la conclusione di uno studio della Royal Society. La Cina, che inventò la carta, la bussola e la polvere da sparo, dopo decenni passati a copiare, a basso costo ma in modo impeccabile, le tecnologie occidentali, ora approda alla creatività scientifica pura. Chris Llewellyn Smith, che ha diretto la ricerca, trae la sua profezia dalla tendenza degli ultimi 15 anni. Nel 1996, le pubblicazioni di scienziati americani su riviste di livello internazionale furono 296.513, quelle di scienziati cinesi 25.474, cioè meno di un decimo. Da allora la produzione americana è cresciuta poco. Nel 2008 è stata di 316.317 lavori pubblicati, con un modesto aumento dell'8% in 12 anni. Sempre nel 2008, gli scienziati cinesi hanno pubblicato 184.080 ricerche, uno sviluppo esplosivo. Se queste tendenze fossero stabili, il sorpasso della Cina sugli Stati Uniti arriverebbe nel 2020, ma le proiezioni annunciano un graduale declino della produzione scientifica americana. Nel caso che la previsione venga confermata, già nel 2013 i cinesi vincerebbero la gara mondiale della produttività scientifica e nel 2020 gli Stati Uniti verrebbero doppiati dalla Cina. Dietro arrancherebbero nell'ordine Regno Unito, Germania, Corea del Sud, India, Francia, Giappone e Brasile. L'Italia nella classifica non compare neppure. Possiamo però aggiungere che oggi il nostro paese dovrebbe occupare la decima posizione, mentre nel 1996, anno di riferimento dello studio della Royal Society, eravamo al settimo posto. Il nostro declino è innegabile. Cina e Corea sono i nuovi arrivati nel gruppetto di testa della ricerca mondiale. Llewellyn Smith si domanda anche quali siano i motivi del sorpasso cinese. La sua risposta è brutalmente economica. Dal 1996 ad oggi, Pechino ogni anno ha aumentato del 20% gli investimenti in ricerca e ora è arrivata a 100 miliardi di dollari l'anno. I risultati si misurano prima di tutto nel numero dei laureati in discipline scientifiche e in ingegneria, che già nel 2006 avevano raggiunto il 1,5 milioni l'anno. Il criterio di Llewellyn Smith ha il pregio di essere molto concreto, ma forse non è sufficiente a spiegare il miracolo scientifico cinese. Anche negli Stati Uniti ormai da qualche anno i cinesi sono diventati più bravi dei colleghi americani, pur lavorando negli stessi laboratori e con gli stessi finanziamenti. A questo dato se ne affianca un altro che Barack Obama dovrebbe considerare preoccupante. Il numero dei cervelli importati nei laboratori statunitensi ha superato quello dei nativi. Da noi la crisi di iscritti in facoltà tecnico-scientifiche si spiega con i continui tagli alla ricerca e una classe politica culturalmente balbettante, ma negli Stati Uniti deve esserci qualcosa di più strutturale. In un articolo intitolato «Il ruggito della mamma tigre», anche Murphy Paul attribuiva il successo cinese al fatto che in quel paese i genitori partono dal presupposto che i figli sono forti e non fragili e quindi pretendono molto da loro. senza disdegnare il ricorso alla vecchia pedagogia fondata sul binomio premi-punizioni, con una preferenza per le punizioni. Esercizi mnemonici, ortografia, studio sistematico della matematica, delle scienze e della musica, in Cina sono pietre angolari nella scuola dell'obbligo. Quando questi ragazzi ben temprati arrivano all'università e poi nel mondo della ricerca, hanno una capacità di concentrarsi sull'obiettivo da raggiungere che manca ai giovani americani. Specializzazione e disciplina sono la loro arma vincente. C'è poi un altro ragionamento da fare. Gran parte del futuro della ricerca di un paese dipende dal libero accesso all'università. Questo deve essere il più possibile aperto a tutti, a cominciare da chi ha pochi mezzi e molta intelligenza. Negli Stati Uniti le università buone costano un occhio. In Cina non è così. In più i cinesi sono tanti. Come alle Olimpiadi, la quantità diventa qualità. Queste ovvie riflessioni avrebbe dovuto farle anche chi ha appena riformato l'università italiana. E a noi europei? Che cosa rimane? Forse quel pensiero divergente e sintetico, che risulta estraneo a chi si accontenta di sostituire il testo di scienze al libretto rosso di Mao. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Cina-Stati Uniti, sorpasso in vista nella ricerca, di Piero Biannucci, dalla Stampa di mercoledì 30 marzo.